tante a volte può sembrare facile. Incontri tanta gente e la musica incredibile. Cominci da bambino con le prime note strambe e ti può cadere che non la smetti neanche da grande. Ma a volte poi succede di battersi in qualcuno che sempre in buona fede progetta il tuo futuro. Ma siete d'accordo? Un concerto troppo bello. Anch'io quando ero piccola suonavo il campanello. Comunque ve lo dico, non è una fissa mia. Dovresti troppo andare a fare musica. E questa è dedicata a te, che mi parli a perdi fiato, ritenendo necessario il tuo consiglio spassionato. E questa è dedicata a te, che anche senza cattiveria rappresenti la rovina della musica più vera. La musica dal vivo ha un altro aspetto entusiasmante, hey. Le luci con gli applausi, la canzone emozionante. Se non ci fosse il palco per dar voce al nostro suono, sarebbe tutto inutile, sì, sarebbe niente di buono. Marina non ti ru. Ma a volte poi succede che ti chiama d'accordo? Va di questo nome. Vorrei proporre al gruppo una bella situazione. Si sposa in settimana il conte Gian Vincenzo. Che dici, non ti sente? Volevi un compenso? E questa è dedicata a te, che mi chiedi di cantare. Lo farei più volentieri il giorno del tuo funerale. E questa è dedicata a te, che anche senza cattiveria presenti la rovina della musica più vera. A volte può succedere che siete uguali ai Twinkle Sister. Questa è dedicata a te. Dai, ma chi se raccorda? Fai a rupino. A volte può succedere che ma questa è dedicata a te. Territorio però. Fai a rupino.